Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi, 1 maggio, proseguiamo la nostra inchiesta sulla nuova emigrazione italiana, aggiungendo un'ulteriore professione e anche un nuovo paese, la Germania. Questa puntata va in onda in una giornata simbolica, la Festa del Lavoro. Festa che dedichiamo alle decine e decine di migliaia di giovani laureati o neolaureati che lasciano ogni anno l'Italia per approdare in paesi stranieri, in grado di selezionarli per merito e non per raccomandazioni, per capacità reali e non per una frustrante gavetta mal pagata, che li giudicano sulla base della loro capacità ed entusiasmo, tenendoli ogni giorno sotto esame e regolandosi sul detto: se vali resti e ti valorizziamo, altrimenti trovati qualcos'altro. Meritocrazia allo stato puro, insomma. Il sistema di consulenza italiano è un sistema molto molto diverso da quello europeo. Nel caso italiano l'esperienza del consulente è mancante per la maggior parte dei ragazzi che entrano, poi giustamente, perché avendo appena finito l'università non hanno quell'esperienza che può avere effettivamente un vero e proprio consulente. Per me il lato negativo è questo, un po' tra virgolette è uno sfruttamento dei ragazzi che comunque uscendo dall'università si immaginano una grande possibilità. Alessandro Gugino, 32 anni, è un ingegnere aerospaziale di stanza a Brema, nel profondo nord della Germania. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Proseguono le audizioni informali in Parlamento della proposta di legge incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia, più conosciuta come progetto Controesodo, che da circa un anno prosegue il suo iter legislativo in attesa del voto. Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione per il Sud, e Giuseppe Guzzetti, presidente di Fondazione Cariplo, hanno giudicato molto positivamente la legge. Punta sui giovani la strategia Europa 2020 per la crescita e la creazione di posti di lavoro. Secondo il commissario comunitario al bilancio Janusz Lewandowski, considerando che oltre il 20% dei giovani in Europa è disoccupato, il bilancio 2011 rafforzerà la formazione professionale e gli scambi di esperienze. A questi scopi sono stati stanziati 2 miliardi per finanziare 290.000 borse di studio per i programmi Erasmus e Leonardo da Vinci. Proposta del presidente della Camera Gianfranco Fini per contrastare la fuga dei cervelli. Sentiamo Fini al convegno della LUISS a generare classe dirigente. Mi piacerebbe un incentivo di altra natura per quelle imprese virtuose che, nello stesso momento in cui investono sulla ricerca e sull'eccellenza, chiamano a collaborare all'interno delle medesime imprese quei giovani laureati nelle università del territorio. Slittano di altri 2 anni le elezioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero e del Consiglio Generale degli Italiani all'estero, lo rende noto la Farnesina, specificando come l'ennesimo rinvio sia motivato dall'attesa della riforma di questi istituti di rappresentanza. Presentato TNT, il Festival dei Giovani Talenti, che si terrà all'Eura di Roma a fine novembre. L'evento è dedicato ai giovani dai 15 ai 35 anni. Secondo il ministro della Gioventù Giorgia Meloni, si intende raccontare ai giovani italiani le loro storie nell'ambito di arte, sport, ricerca e impegno civile. Selezioneremo, dice la Meloni, 200 storie di giovani che hanno costruito qualcosa di importante. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un economista alla Banca Centrale Europea di Francoforte, dove si occuperà della realizzazione di indicatori statistici per la politica monetaria, richiesta la laurea in economia, scadenza per il CV 3 maggio, info su www.ecb.int. Un system engineer all'Organizzazione Europea per la Ricerca Astronomica di Garching, in Germania, scadenza per il CV 31 maggio, info su jobs.eso.org. Una segretario generale per un'importante associazione europea operante nel settore del commercio, ne avrà la gestione manageriale e di bilancio, e i CV vanno indirizzati alla Hoffman & Associates di Bruxelles. Infine un direttore all'Organizzazione Mondiale della Sanità lavorerà a Copenaghen nel settore malattie non trasmissibili e promozione della salute, scadenza per il CV 22 maggio, info su irecruit.who.int. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta per la prima volta in Germania, o meglio nel profondo nord tedesco, nella città anseatica di Brema, città-stato, città libera e storicamente dedita al commercio sul mare del nord, per raccontarvi un'altra storia di espatrio. Nome: Alessandro. Cognome: Gugino. Età: 32. Città di origine: Latina. Studi: ingegneria aerospaziale. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2006. Per andare dove? A Monaco di Baviera. Perché? Per lavorare sul progetto ESA di Galileo. Quale lavoro svolge attualmente? Sono responsabile della verifica a livello di sistema. Dove? A Brema. Tornerai? Probabilmente. Yeah.

ma soprattutto un sistema anche industriale che limita l'ingresso dei ragazzi una volta usciti dall'università. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Alessandro Gugino, ingegnere aerospaziale di 32 anni, originario di Latina. Alessandro si è laureato in ingegneria aerospaziale prima di arruolarsi nell'aeronautica militare e iniziare successivamente una carriera aziendale come consulente, prima a Torino, poi a Monaco di Baviera, infine l'approdo a Brema, dove attualmente è System Verification Control Manager per HB System, una delle principali imprese di tecnologia spaziale tedesche. Ci raggiunge al telefono il professor Paolo Teofilatto, ordinario di meccanica del volo presso la Scuola di Ingegneria Aerospaziale di Roma. E allora anche a lei, professor Teofilatto, la domanda che abbiamo fatto poco prima della pausa ad Alessandro: com'è che anche gli ingegneri aerospaziali emigrano? Questo mi sembra una cosa abbastanza normale, nel senso che i grandi progetti spaziali ormai hanno una partecipazione europea abbastanza diffusa, o anche diciamo mondiale abbastanza diffusa, per cui per esempio Alessandro ora è stato coinvolto nel progetto Galileo dell'Agenzia Spaziale Europea, che vede coinvolte quasi tutte le nazioni europee, e quindi è abbastanza normale che i nostri studenti possano essere appetiti anche dalle altre nazioni europee, come può essere la Germania, la Spagna, la Francia. Questa io la vedo come una cosa assolutamente abbastanza positiva, assolutamente. Vuol dire che i nostri studenti sono anche ben visti, ben valutati. Questo di per sé non è un male. Quello che mi chiedo, la domanda che le faccio è: al contempo il sistema Italia esercita attrattività per, diciamo, gli stranieri? Quello che diceva Alessandro prima è molto vero, che cioè all'estero ci sia una molto maggiore vivacità dal punto di vista industriale, la crescita di molte industrie che al momento sono in grande espansione e quindi richiedono molti più ingegneri. Questo è un aspetto molto vero. C'è anche il fatto che per decisioni, io direi di natura anche politica, sembra che nel campo della industria aerospaziale l'Italia abbia come compito alla fine quello di vendere i servizi, quindi un ruolo abbastanza terminale. Non dico che non sia importante dal punto di vista economico, anzi forse è una delle cose più importanti, però dal punto di vista ingegneristico è abbastanza periferico e terminale. Voglio dire, per esempio, se noi pensiamo alle riprese sulla Terra da satellite, che è un aspetto molto importante dell'osservazione della Terra, mentre un tempo noi avevamo l'intera attività di sistema, quindi la produzione del satellite, il mantenimento in orbita, tutte queste fasi che erano molto importanti dal punto di vista ingegneristico. Tra l'altro, per inciso, voglio ricordare che l'Italia è stata la terza nazione al mondo a mettere in orbita un satellite, quindi aveva un vantaggio enorme dal punto di vista ingegneristico rispetto al resto del mondo. Adesso invece, ecco, di tutta questa attività noi prendiamo le immagini sostanzialmente e le rivendiamo. Questo però non è positivo. È l'indicazione politica. Ecco, diciamo, non è positivo però. Cioè, non è affatto positivo. D'altra parte noi in molti campi, se ci pensiamo, l'Italia è sempre partita molto bene, ha avuto un ruolo d'avanguardia e poi piano piano ha perso terreno e, come le ripeto, l'idea è adesso quella di dedicarsi più ai servizi che esatto. alla produzione. Però che alla fine noi, mi perdoni il termine, sforniamo ottimi ingegneri che vengono giustamente, come dice lei, attratti all'estero, però chi ci perde forse anche un po' il sistema paese, che da avanguardia dell'ingegneria sta diventando qualcosa di diverso. E io sono d'accordo con lei su questo punto di vista. Alessandro, hai una domanda per il professor Teofilatto? All'estero il titolo universitario, ma soprattutto il dottorato, viene ancora considerato un titolo importante. In Italia tutto ciò non vale. L'esperienza personale, posso portarti un aneddoto: parlando con un responsabile di una grande azienda italiana, mi diceva: guarda Alessandro, io faccio molti colloqui e purtroppo capita molto spesso che dei ragazzi che vengono a fare dei colloqui, che hanno fatto il PhD, che hanno studiato in America, vengono scartati proprio perché hanno un grande bagaglio culturale e naturalmente si aspettano contemporaneamente una contribuzione altrettanto paragonabile. Quindi perché c'è questa differenza tra l'Europa e l'Italia a livello di studi universitari e post-universitari per quanto riguarda il titolo? Alessandro, questa è una bella domanda, è difficile rispondere. Da un certo punto di vista è anche vero che il dottorato di ricerca è una istituzione che in Italia è partita molto dopo rispetto alle altre nazioni nel mondo più avanzate. Ed è vero anche che un tempo la laurea nostra sui 5 anni dava un livello di preparazione di gran lunga maggiore di quello che poteva essere il bachelor o il master altrove. Quindi secondo me quella del dottorato è un problema, diciamo, in qualche modo storico, nel senso che ancora le nostre industrie non lo riconoscono per quello che è, cioè una preparazione maggiore, perché tutto sommato ritengono che la preparazione universitaria sui 5 anni, almeno quella che era prima della riforma, fosse sufficiente per avere degli ingegneri capaci. E professore, aggiungo io, ma proprio brevemente, c'è forse anche un problema di gestione aziendale, quando Alessandro in una email che ci ha scritto ci ha detto: le nostre aziende sono gestite da politici, non da tecnici, questo è un problema che influisce anche su noi giovani. Io sono molto d'accordo su queste cose, però non vorrei sparare a zero contro l'industria italiana e forse ci vorrebbe qualche difensore d'ufficio da parte dell'industria, però io sottoscrivo. Alessandro, in un flash il consiglio di rito che chiediamo a tutti voi di dare a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà, che sta pensando tra le varie vie di uscita anche a un espatrio? Provare all'estero. Se il ragazzo sta studiando ancora, io consiglio di fare un percorso possibile di studi all'estero con corsi o borse di studio. Se invece stai pensando effettivamente di andare a lavorare all'estero, utilizza tutti gli strumenti che ti danno adesso i grandi sistemi network, quindi parliamo anche di siti specializzati. Nel mio caso, nel caso di un ingegnere aerospaziale, un sito molto importante per noi ingegneri aerospaziali è Space Careers, dove ogni giorno le grandi aziende, non solo europee ma anche di tutto il mondo, postano possibilità lavorative. Quindi muoversi su questi canali, perché sono dei canali che ti permettono comunque di spostarti molto velocemente, mandare il tuo curriculum e far sì che il curriculum arrivi effettivamente dalle persone giuste senza passare poi per svariati uffici e perdite di tempo. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire la nuova emigrazione. Oggi andiamo a Londra per parlarvi di uno dei social network di maggior successo per i nostri espatriati nella capitale britannica, Giuseppe Marra, ideatore di Italiani a Londra, ben 18.000 iscritti. Italiani a Londra è nato nel 2003, dopo un paio di anni che io ero arrivato a Londra. È nato perché mi sono reso conto che, nonostante ci fossero migliaia di italiani a Londra, non c'era all'epoca nessun modo per metterli in contatto, differentemente da quanto succedeva per le migrazioni precedenti, che si identificavano con un'area specifica, un quartiere specifico di Londra. Fortunatamente questo non esiste più, però vuole anche dire che è molto complicato poi riuscire a collegare in qualche modo questi italiani. Quindi Italiani a Londra, quando è nato, ha avuto subito un grande successo proprio perché è andato a riempire un po' un vuoto che c'era. E ora quanti iscritti conta il social network Italiani a Londra? Oggi siamo oltre 18.000 iscritti ed è un punto di riferimento, diciamo, per gli italiani che vivono a Londra, anche per quelli che desiderano venirci. Qual è il profilo degli iscritti? Ma in realtà poi questa domanda ci dà lo spunto, se vogliamo, per indagare sul perché i nuovi migranti italiani si trasferiscono a Londra. Il profilo degli italiani che vivono a Londra è abbastanza ben definito. Sono mediamente laureati tra i 25 e i 35 anni, provengono da tutte le aree lavorative, quindi che sia la ricerca scientifica, il marketing, il catering, le vendite, insomma. Sono mediamente persone molto intraprendenti che sono rimaste un po' insoddisfatte da quelle che sono le condizioni lavorative in Italia e quindi cercano qualcosa di meglio, insomma, qua a Londra. È cambiato qualcosa negli ultimi anni, nel senso che prima c'era un po' un misto di motivi per i quali gli italiani venivano a Londra, che poteva essere semplicemente quel desiderio di vivere in una metropoli multiculturale, poteva essere il desiderio di venire a imparare la lingua e poi chissà che cosa succede, e poi c'erano anche diversi anni fa, c'erano ovviamente gli insoddisfatti del lavoro. Devo dire che negli ultimi 2 anni questa ultima categoria, quindi quelli degli insoddisfatti, è sicuramente salita tantissimo. Quindi mentre prima si partiva dall'Italia per venire a Londra, oggi è più un scappare da una realtà che non piace, soprattutto lavorativa, per venire qui e costruire una vita diversa. Cos'è che offre l'Inghilterra anche in tempi di crisi che l'Italia non è in grado di offrire loro? La crisi ovviamente qua ha colpito duramente, forse più che in Italia in termini percentuali, diciamo. Però bisogna anche capire che l'Inghilterra partiva da una situazione molto più felice dell'Italia. Poi ovviamente c'è tutto il contorno, ci sono le condizioni lavorative, un sistema meritocratico che non premia le conoscenze ma premia quello che uno è in grado effettivamente di fare, e poi diciamo l'apertura mentale verso le differenze, verso il diverso, e quindi tutto questo mix, diciamo, crea un ambiente di lavoro molto più dinamico e soprattutto crea della progressione nel tempo. Quali servizi offre online il social network Italiani a Londra? Permette di mettere in contatto gli italiani attraverso sistemi di messaggistica, eccetera. E poi soprattutto vuole fornire delle risposte alle domande più frequenti, quelle più calde, quindi quelle sul lavoro, sulla casa, sulla vita a Londra in generale. E per maggiori informazioni potete cliccare su www.italianialondra.com. Prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto online per dare voce a chi di voi è espatriato oppure intende intervenire nelle discussioni che lanceremo settimanalmente. La discussione della scorsa settimana era: l'Italia consente ai propri giovani professionisti di potersi affermare anche a livello personale? Queste le vostre risposte. Diego, architetto. Ho ripensato alla mia esperienza estera a inizio anni 2000, 2 anni a Londra, e alla mia malaugurata idea di ritornare 7 anni fa per provare a gettarmi nella professione in Italia. Mi sa che me ne tornerò nuovamente all'estero. Questo Diego. Aldo, da uno stato dove il maggior valore è il nepotismo non può venire alcuna innovazione e la base del progresso è l'innovazione e il coraggio. Questa generazione di nipoti avrà quindi per un periodo di tempo uno stipendio assicurato. I loro figli dovranno emigrare, così come oggi è costretto a fare chi ha talento, ma nessun parente nelle aziende. Il declino è nostro destino, scrive Aldo. Questa settimana vi lanciamo una nuova provocazione. Ritenete il mondo della consulenza in Italia un sistema di reclutamento di laureati che nasconde in realtà posizioni lavorative dequalificate e stipendi inferiori alla media? Vanno meglio le cose in Europa, secondo voi? È per questo che sempre più giovani professionisti espatriano? Per contattarci potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Esiste anche un gruppo sul portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti, dove rilanceremo settimanalmente la discussione. E finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto allora i vostri contributi online. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 15, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona festa del lavoro da Sergio Nava.